Benissimo, allora iniziamo la nostra serata. Allora, buonasera a tutti e benvenuti. E buonasera a tutti, benvenuti, benvenute. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen. La Biblioteca Provinciale organizza ogni settimana degli incontri con autori e autrici ed ha un interesse particolare per il territorio, che documenta con gli acquisti di libri, con le tesi del Premio Claudio Augusta, con anche materiale multimediale e con il nostro archivio orale. Ma quello che arricchisce enormemente il nostro patrimonio è sicuramente il contatto con le persone, la memorialistica, e soprattutto questi libri, come quello che stasera presenteremo, e per questo ringrazio ancora molto Luciana Palla, l'autrice, e Roland Verra, che sono qui con noi questa sera, e ringrazio anche molto Anna Matzel, che appunto curerà la moderazione e la presentazione. Ci siamo viste con Luciana Palla un paio di anni fa, e qui ringrazio anche Ingrid Urunga, al dire che vedo qui in prima fila, perché erano venute in biblioteca e ci siamo dette che potrebbe essere interessante riprendere anche un discorso legato al territorio in una luce diversa, ma che riprende anche quello che avevamo fatto, non so se si ricorda Luciana Palla, nel 2007 nella vecchia sede di Via Mendola. Avevamo presentato anche un libro dedicato a Livina Longo. E sì, sono passati tanti anni. Comunque avevamo già iniziato un contatto e un approfondimento, e poi da lì insomma sono nate altre iniziative e attività. Vorrei ringraziare per questa serata anche Cherubina Nagler, che ci ha aiutato in questi mesi nel mettere in piedi l'aspetto organizzativo. Vorrei ringraziare anche il collega Ludwig Kastlunger, che questa sera, al termine della serata, vi spiegherà, ci racconterà insomma anche quello che riguarda il censimento, in questo momento ancora in atto, ed è un evento importante a cui siamo chiamati a partecipare attivamente come cittadini e cittadine. E vorrei ringraziare la collega Edith Ploner, che è qui questa sera, della Cultura Ladina, capa ripartizione, quindi la ringrazio di essere qui con noi, di attestare con la sua presenza anche questo significativo incontro. E infine vorrei invitare anche il signor Danny Dorigo, che è il direttore dell'Istituto Culturale Ladino Cesa De Gian, poi ad introdurre anche questa serata. Ma prima ringrazierei anche tutte le associazioni, i comitati, a partire dall'Unione Generella Ladins La Dolomites, dalla Unione Ladini Fodom e poi dall'Istituto Culturale Ladino Cesa De Gian, che ci hanno aiutato appunto anche dal punto di vista organizzativo a mettere in piedi questa serata, che sarà molto interessante e che riguarderà appunto i ladini, fratelleschi e italiani, una comunità di confine, Livina Longo, del Col di Lana, Fodom, dal 1918 al 2023, quindi un periodo molto ampio ma anche molto breve se rapportato con altri momenti e periodi storici, ma sicuramente molto intenso. Lascio la parola al nostro direttore, vi ringrazio e ricordo che la biblioteca registra questi eventi, queste iniziative, per cui qualcuno di vostra conoscenza volesse sentire o voi voleste riascoltare la serata, è possibile dal sito della biblioteca. Ne abbiamo 600, quindi spaziamo e troveremo anche quello del 2007, anzi questa è una sfida. Benissimo. A lei la parola, grazie ancora, buona serata. Grazie di cuore alla Biblioteca Claudio Augusta per l'ospitalità. Darten Kurten, una bella buonasera, Dio vel paia duc, d'ester kilons not. Ben segur aire la dos, Luciana. Luciana Palla, l'Istituto Cesa De Gian, non finirà mai degli edì nos gran Dio tel paie. Perduci l'aur che l'ha fatta, cast l'ultimo ma savon che ente chi sagna, le troppe, le pubblicazioni, ma sarò le reside, il l'aur che l'ha portata in avanti. L'aur che disomba adesso l'ha una caratteristica che le cala del rigor scientifico, della passione e del vive, della vei vivasta in prima persona troppo di cala di quel che dalla scriffa spò Luciana da perdere l'istituto davanti de ringrazie duci che le chilò e va segura a ti. ben segura Roland Vera, che è in da alcuni anni fa esperta in del comitè scientifico dell'Istituto Casa de Janna, a Anna Mazzel, tres presente e disponibile anche le de Televencia. Ringrazio la consulta Ladina, il presidente Castlunger, la Cherubina Nagler. Ringrazio della presenza anche l'intendenta Edith Ploner, la presidente dell'Unione della Dinsinera delle Dolomites Milva Musner, se sa ben, e Duc Vossa. De me una curta, piccola considerazione. Luciana è nel convegno nazionale che ho fatto il 7 ottobre in Ampazza, la in curta portò il risultato di questa resida con la sua relazione e mi ha portato da ite in fatto che le, per chi che leva la sentù che anche Luciana ha finito la relazione la gente ha da San Batuleman mi l'ha scritta in centro la prefazione mi credo che da voi duci l'aur di Luciana ma in particolare da voi cast l'aur si è veduta una comunità che le cala da Fodom, ma che tolite de Beriada, cole Ampaz, poi la dins de Sauramont, ma tolite duci la dins, una comunità che entro il 2024 chier ancora sua collocazione in questo mondo che muda troppo in presa, in un panorama di gran globalizzazione, la che se sa ben le identità, le race, i linguaggi se pierde in la globalità del mondo, ma Luciana Daos ha qualche ancora un sentimento e c'è da voce 100 anni dalla spartizione dei ladins che ancora mi dica da Fodom e da Fodom sention e cal batte le mani da sang della gente che non ha sicuro la capacità di scrivere e di esprimere che Luciana ma la sento che le zaccai che dice qualche ancora sention e penson e cal scrive che sebe in curt qualche il sentimento più bel che l'ente castlaur. E ancora andiò bel paio di cuore a duccia e buon lavoro ire la dos. Buonasera a tutte e a duce in c'è da pert mia e benvenuti a tutti quanti dopo questo lungo diciamo intervento, introduzione e anche tutte le parole di Danny Dorigo che forse non tutti hanno compreso, però forse il cuore è arrivato al cuore, un messaggio profondo dell'importanza di questo libro, lo dimostra anche la sala piena di persone interessate, tante facce conosciute che veramente ringrazio di essere presenti e quindi andiamo a presentare il libro direttamente. Roland Vera, diciamo, l'incarico di farci un quadro un po' generale e un pochino diciamo, evidenziare alcuni aspetti, perché è un libro corposo, bello, interessante, un libro anche avvincente da certi punti di vista, si presta a una lettura facile ma profonda. Edgar, e un bel saluto c'è da me, Pert, buonasera. Quest'opera non è una semplice rielaborazione di un libro importante per la storiografia ladina già edito nel 1986, cioè i ladini tra tedeschi e italiani, bensì anche un'attualizzazione che comprende aspetti nuovi, specialmente lo sviluppo degli ultimi decenni e delle prospettive future di questa comunità che si riverbera poi come analisi sull'intera Ladinia dolomitica, se così vogliamo, perché si tratta della vicenda di una valle e di una comunità, però è emblematica per una realtà in grandissima e veloce trasformazione anche per il resto della Ladinia, pur nelle differenziazioni che ci sono, perché bisogna tener conto che Livinallongo, o noi preferiamo Fodom, è stata assai marginale anche per quanto riguarda lo sviluppo economico e quindi anche per quanto riguarda il processo di coscientizzazione, di presa di coscienza dei ladini, direbbe Beppe Ricco e Buono, famosa pubblicazione sua, però anche una comunità assai esposta, quindi sul confine, e sul confine non solo dell'impero austro-ungarico col Regno d'Italia, bensì anche sul confine, direi, di due realtà culturali, di due visioni del mondo. Si tratta di un'opera assai completa, scritta con grande rigore scientifico, di oltre 360 pagine, e arricchita anche da testimonianze prese sul campo. Questo è assai importante, quindi non solo documentazione scritta, lavoro d'archivio e naturalmente tutto il supporto di note, bensì anche la voce viva del popolo e quindi una visione, diremo grassroots, no? dalla base, ecco, della storia. In questo senso Luciana Palla si pone forse all'inizio, direi, di una nuova visione storiografica in ambito ladino, perché fino alle sue prime pubblicazioni in genere la vicenda dei ladini veniva rappresentata spesso come una nota a piedi pagina di altri eventi, cioè della storia maggiore, specialmente della storia del Tirolo. E quindi avere per la prima volta, con l'eccezione di Enrico Buono, diciamo, una voce dall'interno del gruppo che si fa anche parte in causa, il che è giusto, nonostante il rigore della ricerca, prendere posizione, interpretare i fenomeni storici, e quindi, come già stato rilevato, una interpretazione molto sentita in prima persona, quindi anche di attivista ladina, si può ben dire. Con ciò giudizi apolitici o diciamo ideologici per niente, perché è sempre contrassegnata l'opera da una bella e buona misura nella valutazione degli eventi. Questo è assai importante. Si può dire che in questi ultimi decenni si sia svegliata una ricerca dal punto di vista dei ladini stessi, in cui ora sono diventati protagonisti di questo processo non solo di autocoscientizzazione ma anche di autoanalisi. Se pensiamo a diverse opere che sono state pubblicate recentemente, proprio poco tempo fa, lo studio di Alessandro Margoni, anche quello Net Udash, Net Alliance, no? Però sulla questione della Identitätswerdung della Val di Fassa, diciamo così, oppure l'opera stessa di Pescosta e di altri, come De Grandi, eccetera. Quindi fa anche da capofila per un movimento che promette assai bene. Secondo me era anche ora che i ladini si facessero sentire e andassero un po' a sfatare quel mito di una popolazione quietistica, addormentata nel benessere turistico, no? Che si tende a propagare, oppure prona, diciamo, ai voleri delle autorità esterne, quindi a puri oggetti del divenire storico. Invece notiamo una posizione nuova che l'autrice stessa va a rimarcare verso la fine dell'opera, quindi una maggiore attivazione anche delle generazioni giovani, che promette qualcosa almeno, e quindi senza diciamo indulgere nell'autocommiserazione e nel lamento solito che abbiamo già sentito troppe volte. Passare al vaglio gli aspetti comunitari, storici, identitari, culturali, sociologici di una comunità intera in un arco di tempo contrassegnato da eventi catastrofici ed incisivi come quelli del passaggio di una guerra mondiale sul territorio che nel caso di Fodom ha significato distruzione del materiale della valle, anche questo bisogna dirlo, ed anche esilio volontario o meno di buona parte della popolazione, quindi non solo lutti collegati al conflitto, ma proprio perdita della base materiale, passaggio ad un regime fanatico nella sua visione, direi, assimilatrice, nel senso della strumentalizzazione della popolazione locale ai fini di una grande Italia, oppure la visione dei fratelli irredenti, ma anche poco riconoscenti da parte, diciamo, degli irredentisti. Anche questo, e poi il mutamento repentino degli istituti comunitari, ad esempio le vicinie, il possesso e lo sfruttamento comune dei pascoli e dei boschi, che vennero poi accaparrati dal potere centrale, no? E quindi esposti alla speculazione, con grave danno anche per il patrimonio boschivo, come si sa. Tutti questi sono eventi, diciamo, assai incisivi, forse più che in altre valli che si trovavano sulla seconda linea, diciamo così. Nel caso di Fodom vedo proprio l'accanirsi della grande storia su una piccola comunità, ecco. E poi il conflitto interno introdotto in misura subdola da interessi esterni, quindi l'opzione, la scelta tra l'abbandono della patria a vita, non per motivi tanto ideologici come ad esempio in altre valli ladine, dove la propaganda fu assai, diciamo, orientata verso elementi ideologici e quindi razziali nel caso del nazionalsocialismo, bensì forse più per motivi economici, proprio di miseria vera e propria. E quindi anche questa una declinazione diversa dell'evento luttuoso delle opzioni, che anche non ha raggiunto la virulenza, ad esempio, della Val Gardena, con i conflitti, sappiamo, anche esiziali che si ebbero poi alla fine del conflitto, quei famosi casi del Bosco di Pescul, eccetera, eccetera. E poi le interpretazioni, ho detto subdole, in quanto antistoriche, dei ladini come Hilfswillige o come Kulturdeutsche, quindi in parte posti un po' più in alto nella scala gerarchica delle popolazioni, sopra i contermini veneti, però sempre ai fini di raschiare il barile quando ormai la guerra stava andando malissimo verso il 44 e quindi di reperire carne da cannone, semplicemente. La vicenda della resistenza variamente interpretata, anche lì permangono conflitti atavici sul confine, e quindi una visione non del tutto in linea con la storiografia ufficiale, che vorrebbe poi, che ne so io, la reintroduzione di una compatta visione nazionale unitaria, come pretendevano certi esponenti ampezzani. Anche lì rimane un fondo di opposizione sorda, no? E di un legame ad un movimento ladino che viene percepito non come austriacante, come viene variamente svillaneggiato da parte italiana, bensì come affermazione di se stessi, come semplice tutela della propria identità. Ma anche questi travisamenti erano strumentali, chiaramente, in quell'atmosfera di quei tempi. E quindi tutti gli sforzi del movimento ladino, in genere mosso da idealità superiori, che purtroppo andò a cozzare, facendosi molto male, con la bassa realtà di una politica politicante, parliamo di De Gasperi, di tutti i vani tentativi di aggregarsi in una maggiore Ladinia. sforzi frustrati fino ad oggi di, più o meno. Ora, non è mio compito portare la mia analisi, bensì ricordare appunto l'impegno grandissimo profuso da Luciana Palla in quest'opera. Volevo rendere proprio la misura di questi eventi così significativi e così esiziali per la nostra comunità. Al giorno d'oggi, ovviamente, e qui arriviamo alla conclusione, sono altri gli aspetti di fondo, i paradigmi dell'arricchimento, dello sfruttamento, della mercificazione della montagna, del overtourism e quindi della perdita della misura e del senso. E la sfida è questa di questi tempi, non più tanto la questione strumentalizzazione a fini nazionali altrui, perché più o meno il mondo è globalizzato e altre sono le priorità. E in questa visione l'autrice propugna appunto l'unione indissolubile della tutela dell'ambiente montano visto come ambiente comunitario congiunto alla tutela della propria identità. I due elementi sono indissolubili e quindi non si può fare un processo di semplice UNESCO publicity, ma va anche ricordato l'aspetto dell'identità ladina che è connesso con quello, intimamente connesso con quello della tutela dell'ambiente dolomitico. Se i poteri dominanti a livello provinciale autonomistico, Bolzano-Trento, e in futuro forse regionale autonomistico, se passa la legge famosa sull'autonomia differenziata, non favoriscono, e l'abbiamo percepito in modo chiaro, il passaggio tra una provincia e l'altra, ai ladini l'arduo compito di trovare una base di collaborazione e anche di autoaffermazione, quindi di vera autonomia non solo regionale e provinciale, ma direi ladina. E questa è la sfida per i prossimi anni. Grazie. Grazie a Roland Verra che ci ha dato un excursus anche un po' piccante, diciamo molto costruito in modo analitico e preciso, che dà forza e valore a questo libro, che però nel suo insieme io direi che è un libro anche molto leggibile, non è un libro così aggressivo come potrebbe sembrare dalle parole a qualche volta di Roland. Ci sono delle sfumature da leggere in modo sottile e quindi è un libro poi appunto che è di facile lettura, direi, con tanti documenti di archivio, con le testimonianze, come diceva, che lo arricchiscono, cioè che coinvolgono e aiutano il lettore ad immedesimarsi. E quindi ci facciamo questo viaggio, Luciana, no? nel libro, e direi un pochino, anche forse non tutti conoscono bene la situazione di Fodom, di Vinalongo, la valle, no? Quindi facciamo forse un quadro della comunità, che adesso Roland Verra ci ha detto l'importanza della comunità è legata al territorio. Ecco, com'era, diciamo, allora quando è cominciata e come si è sviluppata nel tempo? Sì, intanto buonasera a Duce, buonasera a tutti. Io veramente è stato abbastanza per me emozionante sentire tutti questi riconoscimenti, questi veramente che sì, non mi aspettavo, ecco, in maniera così plateale. E ringrazio anche Roland che è riuscito ha fatto un percorso molto sintetico, ma proprio cogliendo i punti essenziali della storia di 100 anni di questo volume, no? La prima edizione tradizione era 1918-1948, quindi più o meno mi ero concentrata su quegli anni, fino al massimo agli anni 50-60. Ecco, adesso invece ho ripreso un po' tutta la storia, continuandola con gli ultimi 40-50 anni che ho vissuto io, come diceva lui, personalmente, e quindi l'approccio in questa seconda parte è per forza di cose un po' più diretta, un po' più partecipata, ma penso che non direi militante, ma partecipata sì, perché uno quando le cose le vive chiaramente è un altro modo di approcciarle, ma credo che vada bene così. Ecco, la comunità di Fodom. Sono partita da Fodom perché io sono, come la maggior parte di voi sa, originaria di Livinallongo Fodom, questo piccolo comune che veniva definito nel 1862 da Giuseppe Loss, che era allora giudice a Fodom, che comprendeva anche Col, no? Fodom e Col. Parlava così, scriveva così di Livinallongo. Livinallongo è un'alta valle tirolese a sud-ovest sul Veneto confine. Pieve è sede del decanato, della prettura, dell'ufficio forestale e comunale e un medico condotto con armadio farmaceutico, e siamo nella seconda metà dell'Ottocento e ci sono tutte queste cose, e se noi pensiamo all'oggi, no? Stiamo andando molto indietro rispetto a quello che c'era. Scrive ancora: seminati paesetti, cioè paesetti con terre seminate, con coltivate, case isolate che vedute da lungi spiccano come punti bianchi in un verde tappeto, e di fianco numerose cascate con nive e spruzzi, vabbè, questo aspetto un po' romantico, e nere macchie di boschi che fanno corona ai coltivati terreni. Quindi era l'ultimo paese, descrive Fodom come l'ultimo paese appartenente al Tirolo, perché la strada delle, isolato, perché la strada delle Dolomiti ancora non era stata costruita. E tutto veniva coltivato, pascoli, prati, campi, e intorno c'erano i boschi. Se andiamo all'oggi è cambiato tutto. Siamo usciti dall'isolamento, forse anche troppo, e terre coltivate oggi sono pochissime, le stalle sono in gran parte chiuse, c'è difficoltà a tenere un po' pulito intorno alle case, soprattutto nelle frazioni più distanti, che sono questi lindi paesetti, sono per lo più abbandonate, molte case vendute, svendute, spesso a stranieri, a gente che poi specula, e nelle frazioni gli abitanti ormai si contano sulle dita di una mano, e anche i boschi purtroppo dopo Vaia e dopo il Bostrico non esistono più, quindi l'immagine di Fodom è ben diversa da allora. Ecco, una comunità, perché io dicevo sono nata lì e cresciuta lì, e l'esigenza di cominciare questo studio è stata un'esigenza personale, perché fin da piccola i miei vicini, no? La gente con cui si era in contatto mi faceva capire che noi eravamo ladini, no? E quando arrivava qualcuno dalla Gordina, ma parlo di Gonera, da San Tommaso, da pochi chilometri sotto, dicevano Ruan Taglion, no? Arriva un italiano, cioè, ma come, noi siamo ben italiani, no? Ecco, insomma, c'erano tante cose che non mi quadravano, ma allora non. E invece quando passavano, no, dei tedeschi, c'erano molti turisti tedeschi che andavano su per il Col di Lana, i miei erano molto gentili, salutavano, no? E che percepivo che c'era un atteggiamento molto diverso, no? ma appunto poi è rimasto lì tutto, e quando io poi sono stata via, no, studiato eccetera, e poi uno torna, e quando torna comincia a porsi delle domande, e mi venivano in mente, no, tutte queste cose del passato, e quindi ho cominciato a scavare, e così ha cominciato a nascere questa ricerca e questa storia, che ha coinvolto poi la comunità, perché è partita dalla mia famiglia, poi i parenti, poi i conoscenti, poi via via i testimoni, i protagonisti, i sindaci che c'erano stati allora, no? L'archivio della parrocchia, l'archivio del comune, e ho trovato via via mi si apriva un mondo sui miei vicini, su tutte cose che di cui non sapevo perché nessuno parlava. La memoria storica per dopo la seconda guerra, per un po' di decenni, è rimasta soffocata finché qualcuno non ha cominciato a farla riemergere, no? E questo appunto era il mio scopo, e quindi tante testimonianze orali ho raccolto, naturalmente coniugandole poi, confrontandole con documenti storici, di archivi, facendo continuo confronto fra la storia globale, generale, e quella del piccolo, perché il mio, quello che mi avevano insegnato all'università era fare un continuo confronto, no? Un continuo passaggio dall'alto al basso, vedere come le decisioni dall'alto si calano fra la popolazione, come la popolazione ha reagito, le scelte che sono state fatte, e quindi vedere, e in questo modo appunto ho ricostruito la Prima Guerra Mondiale, il passaggio all'Italia, il fascismo, il periodo del fascismo, le opzioni, quindi tutti questi momenti, la Seconda Guerra, momenti tragici veramente. Ho cercato di capire come la popolazione aveva reagito a questi avvenimenti, e anche perché aveva reagito in quel modo. Perché finita la seconda guerra, passate le opzioni, tornata diciamo la democrazia, i tre comuni ladini sono passati di nuovo sotto Belluno, perché nel periodo dal 43 al 45 erano passati sotto Bolzano, e questo da qualcuno era stato visto come un qualcosa di positivo. Ecco che i nazisti considerano, no, la nostra ladinità, in realtà, come ha detto Roland, era tutto, faceva parte di un piano, di un disegno per inglobare queste terre, e non solo quelle, perché era previsto anche un'annessione del Trentino, anche del Bellunese, dei cosiddetti neoladini, quindi non c'era proprio una considerazione dei ladini. Ecco, è finita la guerra. I ladini tutti, e anche i tre comuni, sono stati considerati come simpatizzanti coinvolti nel nazismo per via delle opzioni, come separatisti, perché dal 45 al 48 ci sono le richieste dei ladini, no? I movimenti, il movimento politico dei ladini dolomitici, no? Per avere autonomia, per avere in considerazione del previsto statuto di autonomia per l'Alto Adige, no? Per la provincia di Bolzano, che poi appunto è stato fatto nel 48, ma si sapeva che sarebbe avvenuto. E in quel momento in cui i confini non erano ancora decisi, alla fine del 45 non si sapeva se l'Alto Adige, no? Sarebbe passato all'Austria o all'Italia, la decisione sia solo all'inizio, nel giugno del 46, che decisamente, no? Si sa che la provincia di Bolzano resta l'Italia. Insomma, era tutto ancora in fieri, non si sapeva cosa sarebbe successo effettivamente, e i ladini fra di loro si uniscono per esprimere le loro esigenze, che erano quelle di rimanere tutti uniti, e per alcuni, per un certo movimento politico in provincia di Bolzano, per altri una provincia autonoma ladina, le soluzioni proposte insomma erano tante, e i tre comuni anche si agganciano, e questo porta le autorità politiche bellunesi e italiane, la regione Veneto ancora non esisteva, a tacciare i ladini di, ancora una volta, di filonazismo, di separatismo, di essere anti-italiani, di essere di rimpiangere comunque la storia passata. Insomma, il legame con dei tre comuni, con il resto del mondo ladino, non viene capito. I ladini erano semplicemente italiani, come diceva Giovan Battista Pellegrini in un suo articolo del 45, settembre 45 e anche dopo. E allora questo fa sì che soprattutto i tre comuni, che non avranno nessuna misura di tutela, no? Però si organizzano fra di loro, il ladino nelle scuole viene sempre un po' portato, ci sono pubblicazioni, ci sono i maestri, ci sono le associazioni ladine, ci sono insomma tante cose che tengono, come diceva Danny, vivo il sentimento ladino nella comunità, e tuttora il sentimento c'è. Certo, il sentimento di identità oggi non è quello di 100 anni fa, è diverso, come è stato detto prima, c'è il problema della montagna, Livinallongo non è quello del 1862, siamo in 150 anni, siamo andati molto molto indietro, nonostante tutti stiano bene e tutti tutti vivano bene, però la comunità è da tutti sentita in forte pericolo, per cui il discorso ladino, l'identità ladina deve essere vissuta, la specificità ladina, io uso meglio questo termine perché identità può essere un po' ambiguo, la specificità ladina deve essere un tutt'uno con il riappropriarsi del proprio territorio, poter decidere sul proprio territorio. Tutto è passato sopra le teste delle nostre piccole comunità, che sono troppo piccole per reagire ai grandi colossi speculativi, ai grandi capitali, no? E questo lo vediamo sempre di più, perché il grande capitale sta sempre più infiltrandosi nelle nostre Dolomiti, no? Patrimonio dell'UNESCO sì, ma ultimamente mi pare più patrimonio della speculazione edilizia. Grazie. Luciana Palla ha, diciamo, adesso fatto un excursus totale del libro, cercavo di intervenire, però ecco, il suo modo di raccontare, così semplice e chiaro, si può seguire nel libro, con tutti i dettagli, con tutti i numeri, con tutte le tabelle, perché è ricco di bibliografia, di tabelle, di elementi. Qualche fotografia, prima si faceva riferimento al raduno su Sella, alla grande manifestazione del 46, che è anche una delle foto, cioè la foto praticamente sul frontespizio. E ci sono tanti elementi, no, che hai raccontato adesso, abbiamo fatto già la prima e la seconda guerra mondiale e le opzioni, elementi che chiaramente grandi che il popolo ha subito e che ha trasformato, no? Quindi diciamo che io ricordo solo adesso, per non ritornare lì, che il libro è interessante perché ci sono anche tante testimonianze, forse vuoi leggere qualche cosa? Sì. Perché la cosa bella è che, diciamo, il valore anche di tutte queste ricerche è che Luciana Palla, lei ha saputo conquistarsi poi la fiducia, no, di tutte le persone, appunto lei essendo della comunità, avendo, diciamo, grandi contatti, e soprattutto la sua discrezione, la sua tranquillità ha, diciamo, fatto raccontare alla gente cose di cui non si parlava più, no, fino agli anni Ottanta, e quindi questo è anche un altro bel valore del libro, che ci aiuta proprio ad entrare più, proprio a medesimarsi. Io mi sono medesimata in questo, per cui diciamo, forse leggiamo appunto qualche testimonianza, qualche cosa, quale vuoi leggere? Leggo questa testimonianza della vita sotto il fascismo, della situazione sanitaria, così. Ecco, no, mi scuso, sono partita perché sono cose che mi prendono, no? Talmente vista, che uno non riesce, vincente, sì, perché ogni giorno noi viviamo queste situazioni, no? E quindi è proprio una cosa, la mancanza dei servizi, la difficoltà di chi vive lassù, e nessuno che se ne prenda cura. Comunque, ecco, una testimonianza di una persona, Benigno Pellegrini, che probabilmente qualcuno ha conosciuto, uno dei tanti miei testimoni, appunto sotto il fascismo. E allora, ecco, dice, le malattie dei bambini derivavano dalla denutrizione. C'era la rogna, causata probabilmente dalle condizioni igieniche. Era diffusa anche la difterite. Questo è il periodo del fascismo, il ventennio fascismo, anni 30, diciamo, più o meno. era diffusa anche la difterite. Erano morti in un anno 7-8 bambini, non veniva fatta ancora l'antidifterica. Non c'erano medicine. Dal dottore si andava quando si era sull'orlo della fossa, perché costava. Assistenza non ce n'era. Ne è andata in rovina di gente che ha dovuto vendersi anche la casa per pagarsi l'ospedale. Il comune aiutava solo quelli che erano sull'elenco dei poveri, quelli che mancavano di tutto. Gli altri dovevano arrangiarsi e c'era veramente chi si trovava in condizioni disperate. E lì c'erano speculatori, perché c'era anche allora chi aveva soldi. Man mano che li ricevevano li mettevano via, non li spendevano. E quando uno era con l'acqua alla gola, rilevavano la sua roba per poco niente. E quando uno si trovava in queste circostanze, doveva svendere tutto quello che aveva. Dovevi pagarti le medicine. Questo era proprio grave. Famiglie con tanti bambini che hanno sempre qualcosa in inverno, nelle stue caldissime e il resto della casa tutto freddo. Ecco, questo è così un esempio di testimonianza raccolta molte altre descrivono proprio il modo di vita di allora, descrivono anche come la gente affrontava, no? Il punto di vista soggettivo, proprio il punto di vista soggettivo umano, come vengono affrontati i vari problemi che sono tanti e le varie tragedie che devono vivere. Infatti questa cosa è interessante proprio perché ci porta anche in prima persona a vedere e capire, no? le cose vissute, sentite, e ci fa capire anche com'è la situazione al giorno d'oggi in altre zone forse, no? di guerra, in altre zone diciamo che stanno vivendo dei conflitti, la miseria, la fatica, no? E qui ce la viene raccontata, noi l'abbiamo vissuta poco più insomma di 100 anni fa, quindi sì, sono... e anche meno, sì, ecco la guerra naturalmente, Roland Verra ha parlato della distruzione materiale e gli sfollati, la gente, tutti hanno dovuto andare via, non c'è stato esodo volontario ma costretti perché è stato distrutto, il fronte passava proprio di là, ecco questo comune è stato tagliato proprio in due, no? Un comune di confine nel vero senso della parola, nel senso che è stato tagliato a metà verso Arabba, diciamo c'era il fronte austriaco e a Pieve c'era già il fronte italiano e quindi in mezzo ai due fuochi e la gente o verso la Boemia o verso l'Italia, anche qua divisi, diciamo, fra tedeschi e italiani, ma è proprio, no, nel vero senso della parola. No? E poi... Cosa vuol dire anche, diciamo, ci fa capire, no, queste situazioni, sì, tragiche, certo, vissute così, anche oggi, profughi, anche oggi le vediamo. Anche dover decidere cosa sono con le opzioni, cosa sono io. No? Io sono ladino, ma non è previsto, no? Devo essere o italiano o tedesco. L'epurazione etnica, i nazionalismi, le opzioni che portano alla divisione all'interno delle comunità, perché bisogna schierarsi o da una parte o dall'altra, e anche oggi, no? Lo vediamo, Israele e Palestina, bisogna schierarsi o con questo o con questo, no? Se ti schieri da una parte non va bene, cioè bisogna schierarsi, no? Tutti sono chiamati a schierarsi, e questo è il problema, no? Invece di comprendere quello che succede, no? Bisogna schierarsi o di qua o di là, e noi abbiamo vissuto tutte queste, sì, cose. La drammaticità proprio, no, di dover decidere, fare e essere poi in una situazione comunque di tensione, di miseria, di guerra. Hai parlato delle opzioni, diciamo nel Sud Tirolo è una storia molto conosciuta, in Val Gardena hanno lasciato dei segni molto profondi. Certo, interessante ricordare che nella tua indagine solo il 3% dei possidenti in Fodom optava, no? Quindi questo rivela già diciamo lo sfondo, no? Perché tu hai fatto anche un'analisi molto puntuale delle professioni, di quanti hanno scelto, no? In genere erano contadini oppure muratori, la gran parte, no? Questo già dice, sì, dice tutto, ecco. Quindi i poveri diavoli, dirlo in sostanza, no? Invece se prima mi ero permesso di ricordare che le questioni economiche erano assai più rilevanti, no, per la scelta. La differenza con la Val Gardena deriva dal fatto che la Val Gardena era stata scelta da Himmler, più o meno, o dai suoi accoliti, perché era in capo all'SS, no? Tutto quanto, come si sa. Come esempio per il resto della provincia, cioè era proprio diventato un campo di sperimentazione e quindi promesse fantascientifiche, no? Vi costruiamo anche il Sassolungo, si diceva, no? Naturalmente verrete semmai trasferiti tutti in blocco e in una zona, diciamo, adatta per il turismo, visto che era già vocazione turistica. Si parlava ad esempio dei laghi della Carinzia, no? E qualche proprietario di alberghi in Val Gardena era già stato lì per vedere quali alberghi rilevare, e promesse riguardo all'industria del legno, quindi dell'intaglio, nel senso che si sarebbe valorizzato tutto quel impianto. E questo già spiega l'incisività della propaganda, che fu assai più massiccia in Val Gardena. Poi ovviamente si addivenne a quei fenomeni descritti da Alex Moroder, no? Dell'invio forzato di optanti sul fronte orientale, oppure persino nei campi di concentramento, le vendette incrociate, e quindi cose assai più cruente, no? Se raffrontate con Fodom, no? Dove, come tu scrivevi, anche se vi era qualche battibecco, non si è poi mai venuti alle mani, oppure, no? Un confronto così acceso. Questo è proprio per dare un quadro, no, di tutti gli eventi che attraversano questo libro, che però ha un filo rosso, si potrebbe dire, no? Perché alla fine noi parliamo di ladini tra tedeschi e italiani, quindi l'identità ladina, o meglio la specificità ladina, come dice Luciana Palla, che un pochino è stata già tratteggiata anche in questo discorso che abbiamo fatto stasera, e che poi viene attualizzata, no? Cioè il libro è stato attualizzato fino al 2022, e quindi analizzando anche tutti gli aspetti dopo, perché appunto abbiamo detto primo statuto di autonomia, i comuni di Soramont, come diciamo noi, quindi a Fodom, Col e Ampezzo passano a Belluno e non rientrano, quindi i ladini da lì in poi rimangono sempre e sono ancora divisi in due regioni e tre province, con diversi tipi di tutela, di riconoscimento, eccetera eccetera. E però i ladini di Soramont hanno vissuto in questi ultimi 20 anni, poi soprattutto, degli eventi ancora abbastanza movimentati, sia per dopo l'introduzione della legge 482 del 99, che ha una legge nazionale che ha riconosciuto le minoranze linguistiche, sia anche poi più recentemente con il referendum del 2007, no, per di nuovo richiedere il passaggio all'Italia, e poi in ultima parleremo del convegno anche che c'è stato l'anno scorso. Ecco, tutti questi eventi hanno portato di nuovo una mobilitazione, ecco. Sì, direi che negli anni 60, 70, 80 c'è stato un calo di sensibilità, no? Poi è successo che la Regione Veneto ha cominciato a riconoscere, no, l'esistenza di non di una minoranza ladina, ma di una cultura ladina. È cominciato tutto pian pianino, una cultura ladina, una lingua ladina, e via via, senza però parlare mai di minoranza. Poi pian pianino, no, il concetto si allarga. E nella provincia di Belluno Le cose negli anni Ottanta ormai le cose erano cambiate, c'era la globalizzazione e c'è stato da parte della provincia di Belluno e da parte anche della Chiesa, no? L'Amico del Popolo, il giornale diocesano, un incitamento perché il Lagordino, il Cadore, il Comelico si dichiarassero ladini, no? E poi c'era la possibilità, c'erano stato introdotto nel 1990 mi pare gli statuti comunali e quindi ecco la spinta proprio che i vari comuni si dichiarassero ladini, non solo i tre comuni ma appunto Lagordino, il Cadore, lo Zoldano, perché naturalmente un confine linguistico non esiste, no? La lingua degrada pian pianino, no? Non c'era coscienza ladina, però le coscienze si creano e si demoliscono come si vuole e quindi c'è stato tutto un processo, no? Di pubblicizzazione, di propaganda, no? Dichiaratevi ladini perché c'è la possibilità non molto remota che la regione e anche lo Stato diano dei fondi, no? E poi Belluno è sempre stata la provincia povera nel senso che si trova fra una regione a statuto speciale, questa, e fra il Friuli altrettanto, no? Speciale, e invece Belluno niente, per cui uno passava di là e di qua, cioè un'ingiustizia, no? Zone di montagna, no? Simili, uguali, lo stesso ambiente, trattate in maniera diversa, un'ingiustizia palese, chiaramente, no? Per i bellunesi, ma evidente per tutti. E quindi la provincia di Belluno, l'ente provincia, si è data da fare per uno statuto d'autonomia per la provincia di Belluno. E allora il motto era che più ladini ci sono e più era facile ottenerla. E quindi c'è stato l'uso strumentale della questione ladina, politico, come è successo in tutto questo secolo, perché i ladini è stato concesso, è stato tolto a seconda dell'esigenza politica di facilitarli o invece non facilitarli, no? I ladini di Badia e Gardena sono stati tutelati perché devono essere un gruppo, no? Che doveva tener fronte al mondo tedesco, no? Alla maggioranza tedesca. Beh, insomma, la questione politica c'è sempre stata in tutto questo e anche in questo caso un fine giusto secondo me, perché la provincia di Belluno, no, aveva tutto il diritto a una essere autonoma, però si è strumentalizzata la questione ladina e i tre comuni hanno reagito, ha detto fino agli anni 70-80 non ci avete considerati, adesso che c'è bisogno, no, invece diventiamo, no, siamo, sono tutti ladini, no? Questo era il discorso, adesso sono tutti ladini e soprattutto non è stato considerata, i tre comuni non sono stati considerati nella loro specificità, nella loro storia, nei loro usi, tradizioni, tutte le loro richieste da 50 anni, no? di usare la lingua nelle scuole, sono stati considerati come gli altri, insomma, un'inflazione, un annacquamento, e allora hanno reagito riprendendo i contatti col mondo ladino del Sella in maniera decisa, come nel referendum del 2007. Che aspetta ancora, diciamo, poi l'iter attuativo, perché ha avuto la grande risposta comunque di tutta la popolazione, 78,86% della popolazione ha dichiarato sì, noi vogliamo andare con la provincia di Bolzano, però tutto l'iter burocratico si è bloccato. A questo ricordo solo brevemente che c'è stato l'anno scorso, diciamo, una gran mobilitazione appunto dalla comunità ladina, dell'Istituto Culturale Ladino, per attivare un convegno nazionale. Il titolo era I ladini, una macchia colorata in contrasto con ciò che diceva sempre Tolomei, una macchia grigia da grattar via. E quindi lì è stato un grande convegno per, diciamo, riaccendere un po' la questione. Di questo, diciamo, sicuramente ne avrete sentito parlare, non si sa che come andrà avanti. Però non so se abbiamo noi ancora tempo per, ecco, no. Allora, invito comunque a leggere questo libro, perché noi oggi abbiamo un pochino spaziato su tante cose, però è davvero a vincente, io direi così, perché ti porta mano a mano, ecco, questa capacità dedicata di Luciana Palla di raccontare e di portare fatti storici legati alla situazione reale, con testimonianze, eccetera. Volevi ancora far vedere? Credo che non facciamo molto tempo, non lo so. Perché poi abbiamo... Beh, volevo solo mostrarvi qualche immagine, perché si parla della comunità, ma è bene anche mostrarla, la comunità. Ecco, questo che vediamo è Pieve di Livinallongo, capoluogo, all'inizio del Novecento, no? All'inizio del Novecento è già stata costruita la strada delle Dolomiti, quindi prima della prima guerra, poi verrà completamente distrutto e poi ricostruito più o meno così. Ecco qua le donne profughe, abbiamo parlato prima di profughi, vado veloce perché appunto il tempo non c'è, ma già l'immagine parla da sola. Qui siamo a Corvara in Valbadia, le donne che si portano quello che riescono, no? Un ceston, una gerla, le bestie, le capre. Ecco il campanile di Pieve, no? Distrutto. E poi tutto sarà ricostruito. E passiamo al fascismo. Questa è una manifestazione religiosa, sarà probabilmente il Corpus Domini, con le autorità fasciste in prima fila. Da noi, anche da noi il fascismo era ben rappresentato, no? Sì, in tutte le manifestazioni, naturalmente c'era. E qua siamo a Colle Santa Lucia, qui siamo il 28 ottobre 1938, è la premiazione di alunni della Dante Alighieri per il miglior tema, quelli che scrivevano meglio, insomma, in lingua italiana, è l'anniversario, il festeggiamento della marcia su Roma. E le scritte, il popolo italiano, educato ed inquadrato nei fasci del Littorio, affronta gli eventi con piena e con disciplina e consapevole, con volontà fermissima, ecco i motti. E questa invece è un'immagine che viene da Cortina, qui siamo il 10 gennaio 1940 e è una... è stato portato a Mussolini da parte, avevo le didascalie ma non importa, mi ricordo, ecco qua, il 10 gennaio 1940, si erano chiuse le opzioni, no? Il 31 dicembre 1939 e c'è stata da parte delle autorità italiane di Cortina, ma non solo, una protesta perché i tre comuni ladini erano stati compresi nell'accordo, i tre comuni bellunesi, e sono state raccolte le cosiddette dichiarazioni di italianità, che a Fodom erano 22, soprattutto di gente impiegati, gente che per forza doveva essere iscritta al fascio. E ad Ampezzo ne sono state raccolte invece 788 famiglie hanno firmato su 3.500 abitanti, cioè in pratica un plebiscito, difatti viene chiamato il libro, viene fatto un libro, plebiscito di italianità del popolo ampezzano, e viene portato a Roma con grande entusiasmo di Mussolini. In realtà le persone che io ho ancora intervistato, perché gli anni 80, persone ancora vive, mi hanno detto che in realtà è stato un inganno, perché si faceva firmare, si andava per le case facendo firmare che la lingua ufficiale anche sotto l'Austria era quella italiana, no? A scuola, negli uffici, e questo era vero, per cui nella dichiarazione c'era anche questo, la gente firmava, in realtà era una dichiarazione di italianità del popolo ampezzano che viene usata dopo la guerra per dimostrare che Ampezzo era italiana e quindi non aveva nessun senso che passasse con la provincia di Bolzano, che quelli erano solo mestatori, separatisti, filonazisti, cioè tutta questo linguaggio nei documenti. Ecco, qui abbiamo parlato delle opzioni, questa è la zona di insediamento degli optanti in Slovenia, optanti di Fodom e Colle Santa Lucia. Sul fiume Sava, la zona fra Klagenfurt, Maribor, Graz, Lubiana. E ho raccolto molte testimonianze di persone che sono state, che sono partite, e, testimonianze terribili, no? Che arrivano su terre belle, no? Ma erano terre di gente slava, di partigiani slavi. Naturalmente poi arrivano i partigiani di notte a portare via il bestiame e i tedeschi di giorno a cercare i partigiani, e gli optanti sono in mezzo, poi devono fuggirsene con niente per salvare la pelle. Ecco qua una di queste famiglie che si trova in, appunto in questa zona della Slovenia, nel periodo sì, ancora buono, prima del tracollo e della cacciata. La Sod, Livina Longo, anche noi abbiamo avuto la Sod nel periodo settembre 43-maggio 45. Non solo sono richiamati obbligatoriamente gli optanti, ma anche i non optanti, in genere giovanissimi e anziani, perché gli altri erano nell'esercito. Questo come testimonianza del periodo di occupazione nazista. E qui siamo invece Zentladina Dolomites, siamo nell'estate 1946, c'è già stato il raduno del Sella il 14 luglio 1946, e di fronte a questo raduno i partiti bellunesi riuniti nel CLN, allora c'era il CLN, hanno mandato un telegramma a Roma protestando, dicendo che Cortina, perché era quella che interessava, no? Cortina era italiana e non poteva certo passare con Bolzano, e quindi questo bisognava combattere questo movimento. E Zentladina Dolomites risponde con un telegramma sempre al Presidente del Consiglio a Roma: popolazione ladina, comuni Cortina d'Ampezzo, Colle Santa Lucia, Pieve e Vinallongo, unanime protesta contro affermazioni telegramma inviato dai delegati partiti già componenti CLN di Belluno. Ripete Zentladina, ribadisce: richiesta referendum popolare per riunione con provincia Bolzano, unica forma democratica, il referendum, atta a dimostrare reali desiderata della popolazione. Chiede abolizione disposizioni con fascistici sistemi, non dimentica aggregazione provincia di Belluno imposta autoritariamente contro volontà abitanti dopo nefasto avvento potere fascismo. Ecco la riunione, questa la foto nota sul passo Sella. Ecco, questo referendum, richiesta di referendum, si realizzerà nel 2007, quindi giusto 40 anni, 50 anni dopo? Dal 46 al 2007, e quindi vabbè, fate i conti, 50, no? Sì, ecco, con un grande successo, come si diceva prima, ecco, Cortina, campagna festa per il sì all'Alto Adige. Ecco, naturalmente questa, no, vista da fuori, è una forma di protesta, perché io penso che nessuno pensi veramente che passare semplicemente con l'Alto Adige risolva tutti i problemi della comunità di Fodomno. L'evoluzione qui è continua e i problemi sono purtroppo molto più complessi. Vaia, distruzione di Vaia, questo è Agai, il mio paese, e il bosco è stato quasi completamente distrutto. Rimangono, qui ci sono ancora alberi come stuzzicadenti. E poi è stato fatto recupero di legname, lasciando tutto ramaglie, tutto per terra. In pratica nel bosco non si entra, non si riesce più a entrare, anche l'humus è stato tutto danneggiato, non cresce più niente, solo sterpaglie, e non si entra proprio più perché l'opera di pulizia in pratica non è stata fatta, è stato prelevato il legname, no? Soprattutto quello buono, e il resto lasciato lì. Ecco, il castello di Andraz, che adesso è stato ristrutturato, che è sede di molte iniziative, e questo è l'Arzonei, da dove passa la strada dell'Avana, la strada dell'Avana che da Colle Santa Lucia, no? La strada delle miniere, l'Avana sono le miniere, c'era il miniere del Fursil e adesso c'è tutto un percorso turistico che porta fino al castello, un esempio io direi di turismo diverso e nuovo che valorizza il territorio. Ecco, grazie, ho chiuso definitivamente. Grazie, grazie Luciana. Noi prima di chiudere volevamo invitare ancora Ludwig Kastlunger, che è il presidente della Consulta Ladina del Comune di Bolzano, voleva fare ancora un intervento, se c'è tempo. Buonasera, Dishkanch, Giulang, lascia un paio di minuti, ma per una cosa per noi dare importante a Giulang, le ringrazio che vengono fatte, te fodom Giulang, la presentazione di Anna Mazza e di Roland Vela. Era, rubo solo per chi ha tempo 5 minuti per un aspetto molto importante per noi che abbiamo la migliore autonomia, no? Ce ne vantiamo e sicuramente abbiamo avuto molti, molti vantaggi rispetto a chi l'autonomia non ce l'ha. Ah, interessante è che qua siamo, se avevamo la penultima, la slide 16, dove si vedeva benissimo il gruppo del Sella, no? Se mettiamo il Sella qua abbiamo le quattro valli ladine, manca l'Ampezzo che sarebbe qua, no? Ampezzo, Fodom, Fascia, Gardana e io Valbadia, una rappresentazione viva del mondo ladino. Io per quanto riguarda invece il censimento volevo ricordare che il censimento linguistico è uno, diciamo, degli strumenti che sta alla base dei pilastri dell'autonomia. Quando parliamo di pilastri dell'autonomia dell'Alto Adige, la proporzionale è uno dei tre. È sicuramente uno strumento che funziona perfettamente quando si può dividere tutto in modo perfetto e quando ci sono tre categorie perfettamente divise. Sicuramente col tempo qualcosa è cambiato, però la base è quella e la situazione attuale è ancora questa. E io ritengo in particolare per chi è la minoranza nella minoranza, il censimento rappresenti uno strumento molto importante perché la proporzione funziona bene appunto se si divide tutto perfettamente, sulle cose che non si dividono perfettamente va a vantaggio della maggioranza. Allora io dico cerchiamo noi di fare gruppo, sicuramente potrebbe anche essere un modo per dare importanza all'identità ladina, perché alla fine la proporzione o le statistiche dicono quanti si identificano ancora nel gruppo 10 anni fa o più di 10 anni fa, perché l'ultimo censimento linguistico era nel 2011, i ladini nell'Alto Adige si erano dichiarati il 4% o un po' più del 4% erano ladini. Quindi chiedo di partecipare, sapete che il censimento si fa online fino a tutto febbraio e poi fino da marzo a gennaio ci saranno i rilevatori che andranno casa per casa a chiedere di fare una dichiarazione linguistica. È un obbligo e noi vi vogliamo solo mostrare anche adesso dal vivo come è facile farlo online, perché avete ancora un mese per farlo. Secondo noi può essere utile, così chi vuole seguire la nostra breve spiegazione, io credo che in 2 minuti riusciamo a fare un esempio con Kerry che non l'ha ancora fatta la dichiarazione, perché chiaramente la dichiarazione si fa una volta e dopo il sistema non ti fa fare ulteriori dichiarazioni. Quindi ci mettiamo, per chi ha interesse a vedere, al computer velocemente, mi collego a internet. Entro in qualsiasi browser, chiaramente, appena ho trovato la connessione. Si sta connettendo. Ok, quindi entro in internet, scrivo qua, adesso vado in un motore di ricerca, metto censimento linguistico presentato nelle tre lingue dell'Alto Adige, io continuo in italiano, quindi partecipa ora. Qua si dice di aver preso visione dell'informativa, si entra con i classici strumenti di identificazione online, quindi carta nazionale dei servizi, carta di identità elettronica o SPID. In questo caso noi entriamo con lo SPID, Kerry ha lo SPID con le Poste Italiane, a quel punto lei si identifica mettendo la sua mail e la sua password oppure col QR code. A questo punto acconsente ed ecco che siamo all'interno di questo primo sistema che fa in modo da identificare in modo univoco ma da mantenere l'anonimato. Quindi si pigia su genera codici di accesso e token, ecco che appaiono due codici, io prendo il primo, quindi il primo codice faccio copia, torno su questa pagina di prima dove io mi sono logato con lo SPID e vado al punto 2, vado alla dichiarazione, a questo punto mi chiede appunto il token, quello che avevo prima, faccio incolla, mi ha preso quel codice, poi se voi lo volete scrivere a mano, a me piace fare copia e incolla. Adesso poi, quindi ho preso questo codice e l'ho messo di là. Adesso prendo la password che mi è stata generata e la metto qua sotto, faccio incolla, vado avanti ed ecco che sono all'interno di questa scheda che è uguale a quella che i rilevatori, altrimenti verranno a casa vostra a farvi compilare. A questo punto vi dice va bene che è possibile compilare, come sapete nel censimento ci si può dichiarare appartenenti o aggregati oppure non dichiararsi. Adesso la Kerry sceglierà e qua noi manteniamo l'anonimato spegnendo un attimino la... Ok. Fa avanti, invia la dichiarazione. No, adesso su questo, anche perché stanno registrando, quindi, e fra l'altro è una dichiarazione anonima, quindi non vorrei che dopo ci fanno storie. Nel frattempo lei si è dichiarata, potete immaginare cosa si sia dichiarata. Comunque, fatta questa operazione, arriva la ricevuta di conferma che si può stampare oppure chiaramente lei qua non ha la stampante ma potrebbe stampare un file PDF, mantiene la sua ricevuta di effettuazione del censimento e in automatico nei sistemi è censita e i rilevatori non si presenteranno a casa sua nei prossimi mesi. Quindi abbiamo dimostrato che il sistema è veramente semplice, quindi dichiaratevi online oppure attendete i rilevatori. Ricordatevi che per la minoranza è sicuramente molto importante dichiararsi. Buona serata a tutti, grazie a chi mi ha lasciato lo spazio e ti fa un PDF creator, vedi? Okay. Ti fa un PDF. Sì. Ah, okay.